Natalinux, Natalinux GC. Hola. Hola. Hola. Solo Rixan, niente hola. Attenzione Natalinux. Oh, sono qui Gianfra, buonasera. Stavo facendo un lavoretto, un apparecchio. Bonsoir, monsieur Natalinux, comment ça va? Tutto bien? Ça va, ça va. E allora, ma hai fatto anche il vaccino, credo? Sì, ho fatto anche il secondo. No proprio. Sto facendo un lavoretto Gianfra, a un apparecchio, ma questo già sta funzionando. Non so lasciare niente. No, io mi sono spostato, ero sul qual è il 15, quindi ci stavo ascoltando gente che mi stava pescando. E ti ho fatto un paio di chiamate perché ho acceso la radio con mia grande meraviglia. C'ho S0 di QRM, mi ha detto ma l'antenna non sta crollata l'antenna. Ho guardato lo strumento, è tutto regolare. Anche da te così, cioè non c'è QRM proprio, una ricezione pulitissima. E anche da me poco QRM, pochissimo. Adesso no. Se mi riesci oggi a farlo. Ecco qua, vediamo un po'. È un macello. Cos'è questa specie di valzer che si sente più forte della tua voce? Il televisore ed è anche basso. Aspetta un attimo che lo spengo. Avanti, chi c'è che chiama sotto? Avanti la stazione, mi ricevi? Oh, chissà da dove è un S3, ma sta andando solo il portante, mi sa. CQ canale 10, la stazione sta entrando, tentando di entrare, non sta uscendo di radio. Natali, se sei all'ascolto mi sto spostando un attimino sul 15, è solo un attimino. Fai, tanto io sto cercando una cosa qui e sono con la lente in mano. Come me, sì, non ci vedo un tubo anche tu. Mi sposto ogni tanto, ci sono questi, forse Alghero. Natali, ma stavi facendo prove sul 23? No, negativo, io sono sempre qua. Che strano, mi è sembrato di sentire la tua voce. Perché anche quella sta dicendo hola, hola, però era sui canali 23-22, boh. Il segnale era bassissimo, S2. Sì, infatti, ma sto cercando questo affare che adesso non lo trovo. Tanto ti trovo, non c'è problema. Aspetta che non segua. Sto scendendo giù un attimino, Natali. Ti richiamo quando rientro. Sì, già sono qui io intanto, dai. No problema. Gianfra, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Gianfra, sei tornato? Avanti, chi è? Avanti, chi c'è rimasto qua? Natalinux, ci sei sempre? Sono qua, Gianfra. Gianfranco? Sì, eccomi, chi sono? Sono arrivato ora. Fa un passaggio un attimo a vedere se riesco a eliminarti. Basta spararmi, molto ce ne vuole. 1, 2, 3, prova, eliminami se ci riesci. ma se c'è gli occhiali non ce la fai. Stavo facendo una cosa, stavo ritornando allo stato normale e un apparato, capito? Aspetta che ci attivizzassero, sono un canale, non so capire chi sono, un canale vicino. No, sono camionisti, devono essere camionisti. Attenzione Claudio, ci sei? Adesso ti spacco le orecchie e poi mi dici che non ci sono. Sempre usuito esagerato. Tutto rimbombante e rintronante. Sì, ti confermo, ce l'ho qua con l'attrezzo. Solo non mi dire di uscire ora perché c'ero poco fa ed era all'ombra, ma appena ti sposti poi al sole ti guzzini. Sono troppo anziano oramai, vecchio, anzi scusa, anche rincoglionito, e quindi non. Il caldo mi fa male, mi scioglie il cervello. Ma cosa pensi che io esca adesso a prendere qualcosa? C'ho anche una tariffa. Ma mi ha attaccato il capo, stavo provando sui canali alti, una tariffa. Spompa sempre questo 430, eh? Va bene. Avanti, una tariffa. E riprendete voi, dai, che sto facendo cosa qua. In realtà io sto riparando un apparecchio, poco fa stavo facendo anche casino col seghetto, perché ne vuol fare due. No, fate pure, io non mi trattengo, se mai ci sentiamo dopo. Adesso anch'io sto facendo cosa, sono entrato per risponderti e basta. Sì, ok, comunque ce l'ho qua, io adesso non so se domani sono di passaggio lì, perché devo salire su Ausilo per fare un test. E niente, non lo posso mettere nel coso, nel cofano. Passando ti chiamo, tanto tu sei sempre casalingo oramai. Esci e ti rubigli e io proseguo per la montagna. Dipende da che ora passi, perché domani mattina proprio devo uscire a fare la spesa, comunque già sono a casa. Dipende dal tempo, perché se c'è molto caldo di mattina ci vuole nel pomeriggio anche. Tanto devo fare un paio di prove se resisto al calore, se no ciccio. Comunque ci devo passare. Quindi vediamo un po'. Va bene, d'accordo, dai, quindi ci aggiorniamo domani mattina, ok? Ok, va bene così. Oh, ascolta, ma tu cavi ce l'hai eventualmente? Cavo VGA e presa di corrente, dai. E sono tutti uguali con i cavi, che ho a tre buchi con la presa che blocca la corrente, già ce l'ho, non ti preoccupare. Ok, stanno bene con 430? Se vuol dire la verità non mi piace molto. Ah, aspetta, però c'è il filtro 2. Oh, che palle, aspetta che cambio il filtro un attimo. Sono un pericolo, c'è due, allora ricontrollo un po' il filtro. Ma mettilo senza filtro, il radio. No, qua è automatico, capito. Cosa dovevo fare? Sì, sei un po' barattolato, non è la tua solita. Poi non so, forse Natalino, che è più giovane, ti può dire qualcosa. Questa è sempre la mia solita modulazione, RC60 e 430. L'ho attaccato oggi, era ancora dentro la scatola, figurati. Quindi c'è poco da barattolare. Sì, in effetti te lo confermo, non mi piace molto, è molto larga come. Non strappa, però non è la tua, neanche quella forte che c'era qualche giorno fa. Questa è molto compressa quasi. Natali, dille qualcosa anche tu, se no pensa che sto dicendo fesserie. Oh yeah. Prova qua, va, che vediamo un po' come ti ascolto. Natali, 1060 e 430, sempre al solito radio. No, non è chiara come ce l'avevi prima, è compressa, ha ragione Gianfranco. Non è pulita come ce l'avevi prima, ad esempio, forte ma pulita, vediamo un po' se riusciamo a migliorare, così va meglio. No, fa un passaggio più lungo. Guarda, non è vero, se così va meglio la pulizia della modulazione? Ma non è la tua solita radio, Cla. No, secondo me è troppo compressa, è esageratamente compressa, perché se fa è sciabarattolato anche quando premi il pulsante, sente tong. Vediamo se è barattoloso anche così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha leggermente diminuito. Adesso non ci ho attaccato il coso, che l'ho staccato, che stavo facendo un lavoro. Se no te l'avrei registrato e poi te la sentivi tu com'era in realtà. Andiamo, andiamo, Claudio! Con lui, sto usando il capo e mi hanno detto che sto uscendo male. Secondo te è successo qualcosa? Negativo, sei perfetto. Da me sei perfetto. Solita modulazione mia? Sì, fa un passaggio. Guarda, a vedere, sono un po' più latte. Perché l'ho attaccata stamattina ancora dentro la scatola e questa è quella che avevo mandato a mettere il filtro. Va bene così? Ah, io non posso dire diversamente, è perfetta come era prima. Va bene, dai, ok, d'accordo, dai, io vi lascio, ci sentiamo dopo, va bene? Non ne strappando né niente, è perfetta, non lo so, andava vecchia, chi è che c'è qua? Natalino e Gianfranco. Ah, ok, dai, saluto anche a loro, dai, avanti Natalino. E dai, sto facendo cosa qua, sto mettendo a posto, stavo aggiustando una cosa. Io sono appena rientrato, sono andato come una passeggiata, sono un bagno di sudore, adesso mi alleno un po', dai. Poi faccio un po' di pesi e poi vado a farmi una bella doccia fresca. Ci sentiamo dopo. E io dopo. E questo. Sì, Claudio, niente, per farti giudicare, ti devo attaccare l'affare, così ti dai tu stesso il controllo, perché per me non è assolutamente come era prima, cioè come era la tua radio in origine, che era forte, sì, anche troppo, però non era così cupa, diciamo così. No, il microfono è sempre lo stesso, la radio è la stessa, quindi non so, la regolazione è quella lì, ce l'ho a 2, il mic gain, MC60 a 50, è posizione in, quindi lo sai, non tocco mai niente. Vabbè, ma non fa niente, dai, se nella tua radio è cupa, pazienza, va bene così. Ok, sentiamo dopo e mi stanno chiamando, ciao. Ok, mi faccio sentire domani, o ti chiamo qua, oppure domani nel pomeriggio, dai, rimaniamo alla Codosi, tanto di lì il telefono dovrebbe prendere. E via, va bene, d'accordo. Ok, bye. A dopo. Attaccato, sarà quello dell'alimentatore. Hola. quello dell'alimentatore, Gianfra. Guarda se il solito segnale quando alzo un po'. Ehi, dimmi che sta alzando però. Cioè, qua già non si vede. Prova. E adesso va. Guarda un po' se... Se è il solito mio, là. Sì, modulato siamo via. Più o meno è così. E cappa, adesso ritorno... Cazzo, mezzo watt da boh. Dice apparecchio. Ma deve dare mezzo watt o non dà più di mezzo watt? No, deve dare che è regolabile, capito? Non è che siamo in finale, ma siamo andati. No, ma ce ne ha detto che quando ho alzato il mio segnale era uguale al solito. Sì, più o meno sia al solito, ma c'è sempre questo strano rumore che sembra perché c'è un lineare attaccato. No, non è un lineare, non c'ho nulla. C'ho il computer acceso, l'alimentatore che non sia quello, e poi la ventola, manco la sento io dell'alimentatore, è il microfono maledetto, malefico, io ci che spengo il computer, sa che sia la ventola del computer. Arresta il sistema. Vediamo più un po' quando si chiude questa cosa. Beh, si sente ancora? Sì, io lo sento ancora. Si sente ancora, Natalia, come? Non è cambiato niente. Adesso vedo un po' se ci ho attaccato il coso. Vediamo un po', ricordare, se vuoi te lo mando, così ti giudichi tu come la questione. Perché è un bel in alto l'alimentatore, lontano dall'apparecchio, mi capisci? Lo so, ma se le manca, se c'è qualche condensatore leggermente andato, gonfio, eccetera, se ne va subito sulla alimentazione e genera questa specie di rumore di ventola, tutto lì è il problema. Prova a parlare, Natalia. Forse ci siamo sovrappopolati. Ho detto, che vuoi che ti dica? Sì, mettimi la portante, senza voce. Ok, vediamo se ci riesco a trasmettertelo, così al volo, senza particolari indicazioni. Vediamo com'era. Forse ci siamo sovrappopolati. Ho detto, che vuoi che ti dica? Si è sentito qualcosa? Sì, sì. L'hai sentito? Si sente anche il cinguettio che è di pari volume di questo rumore? Il cinguettio è del canarino. No, sapevo che fosse collegato, se non avrei dato anche il rapporto a Claudia, così almeno si ascoltava. Mi sento anch'io. Prova. Sì. Quindi sarà l'alimentatore, Natali. Se è tutto spento. Eh sì, il computer è spento. C'è solo questo attaccato all'alimentatore. L'alimentatore è lontano. Questi sono i problemi di certi microfoni, perché infatti adesso fortunatamente non li fanno più, non deve essere roba nuova, deve essere roba vecchia. Quelli lì, a questi microfoni oppure anche all'apparato, manca quella che in gergo si chiama soppressione del rumore, in modo che passi solo la frequenza della voce e non quello che c'è intorno. Di lì invece si sta passando tutto, dal rumore del caranino che magari è più esaltato, al rumore di questa, non è alternata, è proprio rumore di ventola, di motorino, di qualcosa. mentre la voce te la sta praticamente, a posto di aumentarla te la sta diminuendo, così no, non serve a niente l'amplificazione, perché si amplifica tutto, anche i rumori. No, che senso ha? Meglio una radio bassa e si senta solo la radio e si senta anche, anche il canarino che parla. Guarda, adesso l'ho abbassata la radio a un quarto, era a metà poco fa. Ecco, giudica tu, parla un po', io appena stacco parla, per un po' c'è la registrazione. Vai. 1, 2, 3, prova. Adesso è a un quarto e l'ho abbassato il microfono, capito? Era a metà poco fa, adesso è a un quarto, diciamo così. Magari fa casino quella dell'alimentatore, perché uno switching da 30 ampere questo non è di quelli tradizionali, diciamo così. No, no, è proprio quello lì, è il tipo di microfono che sta usando, non c'ha soppressione di rumore semplicemente, quindi tutto quello che trova in giro raccatta e trasmette, non c'è niente da fare, bisogna metterci un filtro di particolare che ammassa le frequenze basse, soprattutto la 50, 60, 60 Hz e così via, in modo che passi solo esclusivamente la voce. Guarda, adesso sto usando il microfono normale, Gianfra. Aspetta che ti rimando, quando sta parla Nathalie, aspetta, adesso fai parlare, non parli. Al mio via. Guarda, adesso sto usando il microfono normale, ti lascio anche la portante in muta, magari questo non prende tutta quella sporcizia, quella ondetta. Qua almeno si sente la voce, non si sentono rumori d'intorno, come hai sentito, no? Ho capito. E questi microfoni lasciano il tempo di prova. Ci vorrebbe un filtro, qualche cosa. Probabilmente sono microfoni datati, non hanno i sistemi per passare solo la voce e basta. Però a molta gente non piace perché poi se si mette musica, magari la musica esce un po' distorta, eccetera, eccetera, eccetera. Capito? E questo è il microfono normale suo. Giustamente non è amplificato. Era il Turner, quello lì. È logico che è datato. Essendo ceramico, porta dentro tutto quello che trova in giro dall'ambulanza ai cani che abbaiano e chi più ne ha ne mette. Posso provare con l'MB+4. Ma se anche quello è ceramico, di lì in quel caso lì forse è più opportuno un dinamico direttivo, capito, che punti verso la voce e non verso l'ambiente. Infatti su quelli a condensatore che sono molto sensibili li trovi diciamo dentro un tubo sempre, cioè quei 2-3 centimetri che le danno una certa direttività rispetto all'ambiente circostante. I tunnel invece hanno subito la capsula aperta da tutte le parti e raccatta tutto quello che trova in giro. Quello è vero. Tu pensa, messo in un elicottero quel microfono cosa combina? No, i piloti non li sentirebbero per niente. Infatti. Ma cosa dico? Mi uso un microfono normale. Ah, guarda. guarda, il volume mi sembra lo stesso, ma non è che qualcosa ci guadagni. Con l'amplificato in questo caso fa ascoltare di più rumori circostanti a parità di voce. Tu fatti dare a Claudio un po' di compressione e la metti di lì, così non è di meno e andate tutti e due bene. Ma Claudio, era veramente così? Non era la sua solita radio, capito? Sì, ma guarda, se lo vedo adesso domani credo ci dobbiamo incontrare, se viene bene le faccio vedere di cosa stiamo parlando, dall'analizzatore anche di modulazione che c'è questo apparato, così si rende conto di cosa si parla quando io dico che si sente in maniera diversa dal solito. E infatti io lo sentivo diverso dal solito. Non era la sua solita radio forse, però non era compressa e non non mi piaceva come radio. Cupa, molto cupa. Non ho capito perché mi sento anch'io. Sei un... Ma rientri, non è perché neanche l'ago si muove. Prova, l'AM3 è terribile. Un attimino che cerco se c'è qualche cavo magari del coso lì, della mano, che sta toccando, ma anche cavi d'antenna sono schermati. Non dipende neanche dove. Sono le casse, forse l'alimentazione. Sì, in effetti. Qual è? Guarda la pesca. Sì, vedi, addirittura innesca. No, con questa. Passiamo lì. Ah, ecco, va. Sì, mi sono dimenticato. Prova. Ecco, adesso non c'è più. Prima usciva con 2,5 watt, usciva qualcosina in più, boh. Non so perché si è abbassata la situazione qua. Stazionario, ma sì. Non ne ho qua, me. Allora. Non ne ho. Quindi, l'ho messo a 20. Sì, adesso non si sente il rientro, quindi vuol dire che sta tutto funzionando bene. Cosa ti volevo dire? E Giulio, oggi ci sono partite. Non lo so se ci sono partite. Se gli fa piacere già entra se non ci sono partite. Vabbè. La mia o a me invece, questo è un solito microfono autocostruito, quindi non si dovrebbe captare niente di particolare, non è né forte né debole. No, questa va bene. Sono passato dai microfoni da tavolo, che ce ne sono tre, al microfono palmare. Solo perché non c'ho lo spazio per buttarcelo dentro qua, e soprattutto perché non mi decido, cioè non mi decido, non c'ho già, cioè non trovo un apparato qua in Italia che mi serviva e niente, solo che dovrei dare le 2000 a trovare qualcuno oramai di apparati di quel genere, non ne vuole nessuno. Quello è un problema. Allora, è giusto. Qua è giusto. So pulizia. Può darsi, questo foto si può anche alimentare. Credo. Però forse rimane in trasmissione. Che spezzone, perché cosa hai fatto? Un collegamento strano? No, ho spostato nel piano di su quello là, il 3009, per non averlo uno sopra l'altro l'apparecchio, l'ho messo da un'altra parte e questo è vicino, perché questo lo uso di più, diciamo così. Dipende, ma quindi c'è due antenne? No, c'ho il commutatore d'antenna, o uso uno o uso l'altro, ecco perché volevo buscarmi la basetta di quell'antenna per avere due antenne, almeno l'avrei messo in ascolto quell'altro. Perché non te la fa un'antenna Natale? Come fai a farla? Ruia. Io ho la PLC 800, però la basetta ce l'ho attaccata alla macchina, toccherebbe togliere la basetta dalla macchina e farò così infatti. Ogni volta devi stare a staccare la basetta, ma guarda la basetta del collegamento. E la base dell'antenna, dove si avvita l'antenna. No, la tolgo del tutto, la metto su una base magnetica e me la metto qui interna, l'antennino interno funzionava, se parlavo pure con quell'antennino, lo mettevo sul frigorifero ed era di lusso. Ma così facevi i TVI, se non ricordo male? No, i TVI lo facevo con l'antenna grande. Ma ho capito. Ma il come si chiama? Ma questa basetta magnetica ce l'hai? Ehi, me la compro una base magnetica. Ce l'avevo, l'ho data a un amico. Tanto non la stavo usando, adesso che mi serve, vabbè, me la compro. Non c'è problema. Mi attacco la basetta dell'antenna e così c'ho l'antennino interno per poter ascoltare. Io credo di averne una buttata da qualche parte, è di quelle grandi però, per che regge un'antenna HF. E anche la mia è grande, era grande, non era di quelle piccole, no? Infatti l'attaccavo al frigorifero, era una bomba quell'antenna. La PLC 800 della Sigma. Sì, ho capito più o meno che antenna è, quelle lunghe, grosse, da camionista. Però, sì, se voi guardo, è piuttosto vecchiotta, però gli attacchi dovrebbero funzionare. Tieni presente che è stata l'aperto, quindi te la devi revisionare, pulire. Il cavo credo che ce l'abbia, cioè il 155, perché era usata anche per VHF, da qualche parte dovrebbe essere. E guarda se ce l'hai, già me la metto a posto io, tanto devo piazzare quella basetta che c'è nella macchina, e così ci abito l'antenna. Guarda che questo io sto parlando dalla base magnetica col PL, cioè attacchi le antenne a PL, non c'ha il riduttore, capito? Sono quelle antenne tipo VHF che hanno il PL 259 che si avvita, in parole povere. Io capisco che quello già si può togliere comunque, perché io ce ne avevo una grande e gli ho messo anche quella, aveva l'attacco a PL. La collineare ce l'ho fuori dalla finestra attaccata al palo dell'antenna, gli ho fatto una tappa e ce l'ho lì quella che si è avvista a PL, infatti ce l'ho per ascoltare quella lì. Cari, ancora cupo sono, sacco, così hai detto, vero? Prova. Guarda, vedere se così va bene, se ho levato il microfono. E mi sa che va meglio così, come radio. ce l'ho le 1060, cioè il meeting del 430 è sempre a 2, non ho cambiato mai niente. No, ma mi preoccupa questa voce che avete letto, che non è quella mia, io non ho toccato niente. Le 1060 era a parte, la radio è arrivata una settimana fa. Va bene, ok, così dovrebbe andare bene comunque. Sto andando con 20 watt, 40 modulati. Sì, non è più compresa, amico, come poco fa. Poco fa era brutta come radio. Gianfranco, come ce l'ha adesso? Adesso qua siamo tornati alle cose serie. Prima eri proprio una gionfa, va. Adesso sei tu alla tua radio. Comunque nel frattempo io ti ho anche registrato e ti mando, senti, giudica tu. Guarda, va bene, se così va bene, se ho levato il microfono. Mi sa che va meglio così, Forse è troppo forte come radio. Sono due ce l'ho le 1060, cioè il meeting del 430 è sempre a 2, non ho cambiato mai niente. No, ma mi preoccupa questa voce che avete letto, che non è quella mia, io non ho toccato niente. Le 1060 era a parte, la radio è arrivata una settimana fa. Va bene, ok, così dovrebbe andare bene comunque. Sto andando con 20 watt, 40 modulati. Ok Claudio, sentito? Sì, così dovrebbe andare bene, ok. Lasciamo così, forse avevo troppo potenza, non lo so, perché mi sono dimenticato forse di abbassare il carrier, adesso l'ho messo neanche a metà, comunque sta segnando 20 watt, 40 modulati, 35 watt. Va bene, allora abbiamo trovato il problema, lasciamo stare così. K di Roger, il segnale quant'è già fa? Aspetta che devo passare in commutazione, cosa mi dice? Adesso funziona, sì. Prova! Guarda a vedere quanto è il segnale, se è buono, così lo lascio stare così. Il classico 920. 920, allora già va bene, ottimo per la truppa. Va bene, perché voi vi ricevo magnificamente bene, quindi per voi non c'è insomma. Avanti Natalie. Infatti, chi c'hai la radio 2? Se no te l'avrei detto che ricompresso. Era brutta amico come radio. Tutta guppa, boh. E invece adesso si è schiarita, non ce l'ha più con la compressione. Sicuramente era la potenza troppo alta, stava saturando. Perché questa siccome è 430, non è come 440 che c'è la scala dei watt nello smitter, capito? Questa c'ha lo smitter, no? Il segnale dello smitter e poi c'è scritto IC a LC. Io ce l'avevo in LC, però in IC mi sono accorto che stava assorbendo 20 ampere, quindi ci avevo la potenza al minimo 80 watt di portante per quello che era brutto, adesso l'ho messa giusta. Va bene. Oh Claudio. Dimmi. Ascolta, siccome io ho una basetta magnetica che vuole dare lì a, cioè una base magnetica cosa natalino, tu ce l'avresti la possibilità di passargliela, perché io così faccio un colpo solo, ne faccio due, capito? Ti farebbe bene. Gianfra, io sono legato al fatto che macchina io non ne ho, io ho solo la moto, la macchina la usa mia figlia per andare al lavoro, capito? Quindi devo, se me la vuoi lasciare, appena ho un minuto che ho la macchina, gliela posso anche passare al volo, capito? Ma non so domani, non so domani perché non so manco i turni, figurati, mia figlia era stamattina alle 7, è uscita qua, non è rientrata, infatti un blocco, c'era anche la lampadella all'arco, io ne so, io non lo so, tutto qua. No, vabbè, ho tanto la basetta magnetica, te la puoi anche attaccare alla moto, tanto non scappa via, capito? Anche se di quelle grandicelle, ma non è, è sempre una basetta magnetica. Col capo arrotolato lì, ammesso che non voglia cambiare. Etc. Ah, non c'è niente attaccato, però non c'è problema, lasciamola, già gliela passo io. Non c'è problema, pensavo c'è l'antenna attaccata, quindi ho bisogno della macchina, non ho già andato a moto troppo, no, l'antenna attaccata alla moto. Vai Natalie. No, PLC 800. Te lo ricordi quando modulavo io con la PLC 800 attaccata al frigorifero? Certo che mi ricordo, scivi anche abbastanza bene. Voglio fare così per metterla in ascolto, capito? Per farmi l'antenino per ascoltare con l'altro, per non lasciarlo spento sempre. Ci conferma, già va bene, sì, va bene, non la faccio avere, poi te la passo, va. Non c'è problema, vediamo come siamo messi. È nata lì, bisogna metterle il fondo, che non c'è, mi ricordo che non ce l'aveva, che ne è uscito, il fondo antigraffio per le carrozzerie, per intenderci, cioè il magnete a vista. Adesso vado un attimino e controllo se non se l'hanno portato via qualche gatto magari. Sì, no, ribongo un panno, gli metto. Tanto non la devo attaccare nella macchina, la devo attaccare al frigorifero, sopra il frigorifero. Sì, allora se avete attaccato al frigorifero già va bene, non c'è problema. Sì, magari è come quella che avevo io, no? Dove ci avevo attaccata la collineare, ti ricordi? Io avevo tolto l'attacco a PL e gli avevo messo la basetta sua dell'antenna. Sì, già va bene, cosa l'ultimo? Perché quella che avevo l'ho data a Franco, l'avevo data quella larga e bassa, era come base magnetica, era bella, a me bella voce. Diamo la ricordo, a volte diamo le cose e poi andiamo a cercarle, cazzo, non le abbiamo, vabbè, pazienza, così è la vita, già va bene. Sì, sono entrato, ce l'ho nata lì, confermo, ne ho una PL, l'altra che è più piccolina è quella col coso, come si chiama, con l'attacco a farfallina, dai. Ho capito. Dimmi quale preferisci. O una o l'altra, intanto mi serve per attaccare la PLC 800 al frigo, non è che devo attaccarla in macchina né nulla, capito? La devo mettere nel frigo per farmi l'antennino. Infatti. Vabbè, poi te la guardi tu come modificarla, come farla, se ci vuole caso o no. Io non faccio altro che scaricarla lì da Claudio. Poi s'arrangia. E niente. Sono andato un attimino a guardarla, no, questa cosa, siccome vicino alla caldaia. E mi ha preso a voci un passerotto che dice al nido. E mi sentivo questo. Questo si è fatto il nido nella canna fumaria della caldaia. Che cose strane che fanno gli animali, si stanno sempre più umanizzando. Ma ha preso a voci, si è messo lì davanti, e ho detto un attimino, sto guardando questa, come sta andando, roba la matti. Ma tu sei andato, hai violato la sua privacy, sei andato a disturbarlo, è logico che ti ha preso a voci. E lo so, ma la caldaia è mia, non è sua, è lui che se l'ha messa lì, poi non ho capito se quando si accende, siccome la caldaia a gas, quando si accende insomma un po' di calore già ne esce. Cittina, ti è appropriato della tua caldaia? Sì, se lasci fare qua ti buttano fuori di casa, a iniziare dai ricci. Sono rientrato ieri notte e c'era un riccio grande quasi quanto un gatto. Evidentemente non era contento di vedermi, ha iniziato a borbottare, sembrava un vecchio rincoglionito. Ma cosa vuoi? Ma a casa tua è non lì. Non ho capito. Se tu sei venuto qua, mica io che sono venuto a te. Infatti, E Claudio, tu animali ne hai di questo tipo lì da te, tra poco si mettono anche a parlare qua. No. Gli animali ne ho solo, a Filippo e basta. Va bene, rimani in ascolto, lo metto a posto qua e poi ci sentiamo dopo al limite, ok? Ok, ma penso comunque che Filippo adesso sia contento e scorazzare mattina e sera, dormire, tante cose nuove, per loro stare così liberi vuol dire tanto. Io lo credo, è Renato, poverino. invece qua mi vicino a me, quello che sta per terra, il fresco sotto la scrivania qua, non è che sta sempre fuori, quando c'è il caldo sta dentro, perché dentro c'è più fresco, non è macchio. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo ragazzi, riprendi Natali. Ehi, ok, buon proseguo allora. Gli chiamano Macco, la è nel suo ambiente, visto. Ma è contento, dove la mattina si alza, va, fa i bisogni, poi ritorna vento sicurità di nuovo, hai compreso? E così, io nel frattempo pulisco, fuori quello che lui sporca, e lui si ricorda, esce verso le 10, le 11, a volte anche a mezzogiorno, se no sta sempre dentro. Figurati. Ma dove andiamo? Chi è? Mi, l'altro, mi. È arrivato. Bubu. Ma dove andiamo? Cazzo, cazzo. Ma al mare ero. Al mare ero? Sì. Siamo a Piedazzi. Si è rotta la macchina. E non te lo comprare la macchina. Ehi, cazzo, che ridina il gaggo. Ci vuole più vedere di Nanni, qual è il problema? Sì, magari, claro. Allora, sai quanto ne avrei fatto? Un bel, miliardi di figli. Sei stato il più ricco del mondo a Sassari. Tu è anche cocomane, Luca. Tu sai? Sì, anch'io lo so. È vero. No, claro, si è rotto il coso, il... come si chiama? Si è rotto il radiatore, bucato. Ehi, cazzo, via, boh. Vai, la Bendinelli te lo fai saldare lì al portatore, 20 euro e un radiatore nuovo. No, lo porta da Giuseppe, lo sta cambiando. Se non lo cambi fai prima, non si può riparare il radiatore, pensavo ti c'era la fuga di motore, cazzo, boh. Ma ti stava prendendo liquido, ma vai, io la controllo ogni tanto, apro il cofano, vedo un po' il livello dell'acqua, capito? La baschettina. Vedevo sempre che calava, ma poi ho visto delle macchie in terra. Allora lo chiamo, ho avvisato la marina, passa così così, se gliel'abbiamo portata stamattina, cioè gliel'ha portata, e gliela dà domani. Ehi, ehi, già va bene. Ok, già fa, riprendi tu che io mi allontano un attimo, ripeto, venite ci aggiorniamo dopo, ok? Ciao a tutti. Sì, mi stavo trovando un'email, che mi è arrivato il coso per la certificazione verde. Adesso vediamo come funziona questa cosa. Dai, ci sentiamo, ti chiamo domani. O di mattina o di pomeriggio, vediamo un po' come la situazione. Riprendi, Natalia. Cappa, aspetta un attimo, voglio vedere una cosa, no? Questo è giusto qui, e là sei sbagliato. Identity. significativo vogliono questi, ma che sono guasti. Ma io non ci sono riuscito a farlo funzionare, gli ho messo quell'affare che mi hanno mandato nel messaggio, però non sono riuscito a farlo funzionare. Chi c'è sotto che fischia? Oh, c'era uno sotto che fischiava. Adesso lo controllo se lo trovo. Qua neanche quello hanno mandato. Ma mi sa che sono un po' gareddo. Questi sono rincoglioniti. Può anche essere. Qua non mi danno nessun numero, niente. Io il numero identificato io ce l'ho messo. Poi, vabbè, provo tramite lo speed, forse è più adatto. Vabbè. Ma non va bene ugualmente il foglio che ti hanno dato loro, come che ti hanno vaccinato? Beh, dovrebbe andare. Adesso vediamo. Hai forse gli studi, Davi. Di prossimità, giusto per farti un esempio. Presente un secondo che ho ricevuto una telefonata e non me ne sono accorto, vai, provo a chiamare. Eia. Tocca a Perivella. Claudio Ragaella. Come andiamo, ci sono bovari. Ma quanto tu lo fai, si chi pilli in pizzorra? Allora, ma ho fatto, si è capito. Tu vai, boh. Ma dove andiamo, cazzo? Allora, no, fare se che peso, che peso, se che tiro. Quindi sta andando bene lui con col capo. Bravo, basi, là. Se vuoi ti registro ti mando, ma dice che ma quanto pare non prende la linea, non prendi lì, no? No, la mia no, quella di Anna di Laria sì, io sto aspettando che mi scada il contratto, perché se no ci ne metto capo e cavoli, devo passare alla Windy 3, dopo la fa non prende un cazzo qua. KK, E basta farti un altro gestore e ti rimani da fanculo. Infatti così sto facendo, adesso faccio altro gestore e servi il culo. Dai, sentiamo dopo che Marina sta facendo roba qua, se no tanto non sento. A dopo, ciao. E via, ciao a dopo, K. Luca, lo stesso segnale mio, il solito è? Sì, Natali, qua c'è il solito. E K. Perché mi stava segnando di meno poco fa, adesso ho messo a posto. No, lo stesso segnale, sempre no, beh, non c'è problema. Sono riuscito a avercelo, però non tramite cosa, tramite l'applicazione io del governo. Con quella lì si è riuscito a farlo, però ci vuole il coso, come si chiama, lo speed, io non ce l'ho quello. No, non me l'ha chiesto, dato che ti devi autenticare comunque col tuo codice, io non so se ce l'hai con l'applicazione, quella che si usa per il cashback anche, che ti restituiscono i soldi, no, che paghi quando fai la spesa. Natali, poi quella che ho sentito, cos'è, la TPE? No, altra gente. Mi serve la frequenza della TP e altra gente anche. Quella della TP com'è? Ma qui te le dico. Sì, te lo esempio, volendo. Sono un SWL, no? Capito? Sono la chiamata, non posso ascoltare. No, non direi proprio. Quelli che stanno vaccinando sono nel canale 1 LPD. Adesso ti dico, perché bisogna che... Allora, ecco qua. Allora. 433-075. Claro, non si possono dire, sono espressamente vietate queste cose, occhio. No, te lo dico con certezza. 57-775. Non si dicono Natali, non si possono dire. Capito? Non sono frequenze amatoriali. Aspetta un secondo. No, quello non mi interessa, Giulio, non mi interessa, ciao, buonasera. No, quella dei tram mi interessa. Capito? Io ce l'ho fermata proprio a 100 metri e magari per gli orari, capito? Com'è quella di tram? 160? Te l'ho detta. Poi ce n'è un'altra, aspetta. Allora, 162-375. 162-375, ma dove parlano sempre? Qual è questa? O una o l'altra. Una è ponte, l'altro ingresso ponte. Ah, mamma mia. 162-375, così è. Ehi, ma non ripeterle. Oh. 162-375. Avanti, buon cuore abbordante. 375. Aio. Dai, Cla, poi dai, già ci vediamo e te lo spiego, non c'è problema. Che poi roba. Era bravo, dai. Mi interessa, così li chiamo per vedere se devo fare il biglietto ogni volta. Eh sì, a Gianni Rosso, chiamalo così ce lo dice. E adesso lo chiamo. E l'altra com'era, Natali? Sì, gatta, non mi rammento.